Pronto, pronto, Marilu, rispondi al telefono. Ti devo dire un fatto che riguarda una pompa. Ero in giro, un bonazzo mi viene a fermare. Mi guarda il culo, mi vuole far. Mi vuole far, mi vuole far. Mi guarda il culo, mi vuole far. Si tocca il paccone, me lo vuole dare. Mi prende per mano e mi vuole violentare. Il cesso è grande, dice, e lì possiamo entrare. Apre la cerniera e sai che vuole far. Cazzo rispondi, dove hai il telefono? Mi sono fatto un bonazzo nel cesso. Troia rispondi, sei una cazza Marilu. Mi sono fatto un bonazzo nel cesso. Rispondi al cielo, cazza. Rispondi al cielo. Mi vede, mi ferma, mi guarda il culo e mi dice fammi una pompa. Mi vuole stuprare in bagno, mi porta e mi dice fammi una pompa. Nel cesso mi fa entrare il gisbottone, mi dice fammi una pompa. Rispondi al telefono, ti devo raccontare di questa pompa. Maledetta pompinara, stavo dormendo. Ora fai le pompe anche al gabinetto. Manco a scuffilare mi fai stare nel mio letto. Che fai i pompini, lo sanno anche i bambini. Scusa maledetta, ti volevo aggiornar. Non pensavo che stavi a scuffilar. Ero in pieno sonno, sognavo di trombar. Sul fatto che sei troia non mi devi aggiornar. Non mi devi aggiornar, non mi devi aggiornar. Sul fatto che sei troia non mi devi aggiornar. Cazzo rispondi, dove hai il telefono? Mi sono fatto un bonazzo nel cesso. Troia rispondi, sei una cazza Marilu. Mi sono fatto un bonazzo nel cesso. Cazzo rispondi, dove hai il telefono? Mi sono fatto un bonazzo nel cesso. Troia rispondi, sei una cazza Marilu. Mi sono fatto un bonazzo nel cesso. Rispondi al cielo. Rispondi al cielo. Mi vede, mi ferma, mi guarda il culo e mi dice fammi una pompa. Vuole stuprare in bagno, mi porta e mi dice fammi una pompa. Nel cesso mi fa entrare il jeans bottone e mi dice fammi una pompa. Rispondi al telefono, ti devo raccontar di questa pompa. Di questa pompa. Di questa pompa. Rispondi al telefono, ti devo raccontar di questa pompa. Di questa pompa. Di questa pompa. Rispondi al telefono, ti devo raccontar di questa pompa. We're sorry, the number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.